Ed ora ecco le parole nuove. Come al solito, ripeta ogni parola. Repeat each word. Ripeta ogni parola dopo la seconda volta. After the second time. La Fiorentina. Steak cooked in the Florentine way. La Fiorentina. La bistecca. The steak. La bistecca. L'osso. The bone. L'osso. Ordino io. I order. Ordino io. Tutti. Everybody. Tutti. Vogliamo. We want. Vogliamo. Specialità. Speciality. Specialità. Se ha avuto problemi, ripassi di nuovo il vocabolario. Altrimenti... Otherwise? Altrimenti...